Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. È scattato sabato scorso l'aumento dell'aliquota IVA al 21%. Per imprese e professionisti si è aperta la partita dell'adeguamento alle nuove regole. Vi segnalo subito che oggi con il Sole 24 Ore c'è la guida come cambia l'IVA per spiegare agli operatori la gestione degli aspetti più delicati di questo passaggio alla nuova aliquota. I commercianti, per esempio, dovranno fare attenzione al sistema contabile sia per la fatturazione che per il pagamento periodico dell'imposta. I professionisti invece dovranno focalizzare la data in cui incasseranno la parcella dai loro clienti, senza dimenticare, il Sole lo spiega, che esistono anche delle situazioni particolari, si chiamano regimi speciali, in cui l'applicazione della nuova aliquota sarà valutata caso per caso. Il passaggio al 21% dell'IVA non è la sola novità, intervenuta con la manovra di questa estate, diventata legge appunto da settimana scorsa. E allora vi ricordo che quello di oggi sull'IVA è il primo di ben 12 appuntamenti che proseguiranno tutti i giorni e toccheranno punto per punto tutte le novità introdotte dal testo approvato della finanziaria. Noi, per quanto possibile, con Salva Danaio seguiremo questi appuntamenti iniziando proprio da oggi. Peraltro, parlando della novità relativa all'aumento dell'aliquota IVA, ricorderete che già con Salva Danaio ci siamo occupati di questo argomento settimana scorsa. Abbiamo cercato di fare una valutazione dell'impatto dell'incremento sui generi di largo consumo, quindi quanto poteva teoricamente cambiare anche il nostro carrello della spesa, quanto costare di più. Già le associazioni dei consumatori hanno denunciato un'ondata di speculazioni come quella sulla benzina. Noi oggi però, ve lo ricordo, ci focalizziamo di più, anche perché ce lo hanno chiesto in molti, sui cambiamenti per i professionisti, perché le novità non sono proprio facilissime ed immediate e occorre anche spiegare molto bene quali sono le sanzioni previste in caso di violazioni in questa fase di passaggio tra aliquota al 20 a quella al 21%. Con noi stamattina il collega del Sole 24 Ore, Giovanni Parente, che saluto. Ciao Giovanni, bentornato. Ciao Deborah, ciao a tutti. E bentornato anche al nostro esperto, uno dei nostri esperti preferiti di questioni fiscali per il Sole 24 Ore. Un saluto a Luca De Stefani, buona giornata e benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, ricordo che naturalmente potete intervenire con le vostre domande, che immagino già, oltre che di carattere generale, saranno anche estremamente specifiche. Potete rivolgercele all'800240024, in alternativa ci potete scrivere al 349-238-6666 se avete dei casi particolarmente complessi. Potete anche scriverci all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Per chi legge il Sole 24 Ore da cima a fondo avrà notato che oggi con il Sole anche in edicola la guida ai master, pensata un po' come una bussola per decidere per i giovani che sono usciti dall'università se e a quale master iscriversi. Avrete notato che questa sarebbe stata teoricamente la puntata di oggi di Salva Danaio. Abbiamo deciso, scusateci, questo cambio in corsa perché ci sembrava molto più di attualità fare chiarezza su questa novità importante, appunto la variazione dell'aliquota IVA per i professionisti. Per cui magari se volete conoscere qualcosa di più invece relativamente proprio al master possibile da frequentare, potete collegarvi all'indirizzo www.ilsole24ore.com/guidamaster. In questo sito è disponibile una mappa dettagliata dei corsi, potete trovare tutte le informazioni sull'offerta formativa proposta da università, scuole di eccellenza, dagli enti privati, e quindi insomma collegandovi sul sito internet trovate tutte le informazioni che vi servono sui master. Oggi per Salva Danaio dovrete accontentarvi di questo argomento un po' da digerire, un po' complesso, Giovanni, e devo dire che non mi avete reso le cose facili in questa puntata. No Deborah, però è un argomento molto delicato che però tocca tutti quanti i cittadini. Tra l'altro, esatto, peraltro volevo segnalare anche, perché è una cosa che mi ha divertito molto, quanto ha pubblicato sempre il Sole 24 Ore di ieri, firma di Attilio Geroni, che è il caporedattore delle pagine dell'economia del Sole, che si è fatto un giro per i bar della zona dove abita proprio per monitorare quanto e se l'aumento si fosse immediatamente trasferito alla tazzina del caffè, tutte le colazioni sono aumentate. Lui ha fatto appunto questo check-up fra i locali della sua zona ed effettivamente l'adeguamento c'è stato. Molti, per esempio, grandi insegne, la grande distribuzione, molte grandi marche hanno deciso di assorbire completamente questo aumento per non penalizzare appunto i consumatori. Di fatto, per quello che riguarda invece il tema di cui parliamo stamattina, professionisti, piccole aziende, l'aumento si deve fare, però la questione è un po' complicata per questa novità normativa. Non arriva alla fine dell'anno, arriva nella metà di un mese, nella seconda parte appunto di un anno, per cui c'è anche tutta la sorte, c'è tutta la complicazione anche un po' transitoria che deve essere chiarita. Allora Giovanni, ricordiamo un po' il tema principale, insomma, secondo te l'impatto più importante di questa novità si avrà sui professionisti? Perché in realtà Luca De Stefani mi indicava di fare la specifica in tre grandi macro aree: cessione di beni immobili, la situazione appunto dei professionisti e i beni immobili, quindi le compravendite immobiliari. Diciamo, per banalizzare, per rendere più semplice e digeribile l'argomento, insomma, che la nuova aliquota si applica per quanto riguarda i beni immobili, quindi stiamo parlando ad esempio di un televisore, dell'acquisto di un capo di abbigliamento, alla consegna sostanzialmente del bene. Mentre se io sono andato dal mio avvocato, mi ha fatto una consulenza o mi ha assistito in un procedimento, di fatto il momento dell'applicazione della nuova IVA è il momento in cui io lo pago. Questo significa che però per il professionista, per l'avvocato, il commercialista, bisognerà in qualche modo riaggiornare la fattura che in qualche modo aveva già preparato. E io nel momento in cui andrò a pagare l'IVA al 21%. Queste sono quindi le grandi novità. Luca De Stefani, abbiamo detto tutto correttamente fino a questo momento, poi andremo nel dettaglio ovviamente intercettando anche le esigenze più importanti dei nostri ascoltatori. Sì, certo. Una cosa, l'aumento della tazzina del caffè o del cappuccino non è giustificato in quanto la somministrazione di alimenti e bevande ha l'aliquota al 10%. Quella al 10%, quindi hanno ragione appunto le associazioni dei consumatori che denunciano delle speculazioni. Che cosa possono avere, come dire, addotto come scusa, per esempio, gli esercenti di bar? Alcuni prodotti acquistati possono avere, che loro acquistano, possono avere l'IVA al 20%, quindi che è passata al 21%, come ad esempio l'affitto dei locali, l'affitto dell'azienda, c'è una fattura con IVA del 20%, però è anche vero che loro detraggono quest'IVA, quindi per loro non è un costo alla fine. Se invece si acquista un altro prodotto in un supermercato, lì abbiamo altre tipologie, di tipo il televisore, supponiamo, gli abbiamo un'IVA del 20%, ma se è la somministrazione di alimenti e bevande in bar, ristoranti, c'è l'IVA del 10%. Se però questo bar, per esempio, ha comprato le brioche congelate da un altro negozio nel corso del trasporto, in qualche maniera l'aumento dell'aliquota IVA si risente, per cui il commerciante, il barista, si sente autorizzato appunto a fare questo aumento e a praticarlo alla tazzina del caffè e alla colazione? Ma non è corretto, perché comunque quell'IVA che lui paga di più del 21%, ad esempio per l'affitto del locale, è un'IVA che può detrarre e quindi va a scomputare dall'IVA che andrà a versare relativa alle vendite che fa. Quindi in questi casi... Allora, giustamente, come ieri Attilio Geroni sottolineava, mister Prezzi, c'è un po' di lavoro per lei adesso da fare. Giovanni, volevi aggiungere qualcosa? No, c'è un organismo di vigilanza che vigila appunto sull'andamento dei prezzi, sugli incari ingiustificati. Sì, sì. L'autorità è una sorta di autorità garante al Ministero dello Sviluppo Economico e speriamo che faccia sentire la sua voce. Ritorniamo invece alle questioni delle quali ci vogliamo occupare questa mattina. Allora, andiamo alla cessione di un bene mobile. Vado al centro commerciale Luca De Stefani, compro un televisore, ammettiamo di averlo comprato il 12 settembre, ma ancora non mi è stato consegnato, per cui ho pattuito un contratto con il centro commerciale per pagare un determinato prezzo. Ma se io l'ho già pagato il televisore, l'operazione è chiusa? Oppure comunque devo, se mi viene consegnato dopo il 17 di settembre, devo comunque fare la revisione del prezzo, quindi aggiungere al commerciante l'1% in più di aliquota IVA? No, allora la regola generale appunto è quella della consegna, però se precedentemente alla consegna del bene avviene il pagamento oppure la fatturazione, allora c'è l'anticipazione dell'operazione. Ecco che nel caso specifico in cui c'è stato fatto questo pagamento prima di sabato scorso, il pagamento al centro commerciale, l'operazione si considera anticipata al momento del pagamento e non devo quindi attendere, quindi è conclusa, il momento della consegna. Ammettendo di aver comprato un televisore fantascientifico e spettacolare per la mia casa, per il quale ho solamente dato un anticipo, De Stefani, e quindi su quell'anticipo immagino si mantenga l'aliquota al 20%, poi però il saldo di questo acquisto lo faccio la prossima settimana. Allora, in questo caso, dove e in che momento va conteggiato l'aumento dell'aliquota IVA? Sì. In questo caso il centro commerciale è obbligato ad emettere una fattura con IVA al 20% solamente per l'acconto nella data specifica in cui è stato fatto il primo pagamento, e poi dovrà emettere un'altra fattura nel momento in cui vi è la consegna questa settimana con aliquota IVA del 21%. Allora, fino a qui sembra tutto teoricamente abbastanza semplice, ma quali sono per esempio le problematiche nelle quali incorreranno in questo frangente, De Stefani, a suo avviso? Proprio rimaniamo in questo momento all'ambito dei centri commerciali, che difficoltà avranno a gestire le relazioni anche con i clienti? Ci sarà stato un aumento dei prezzi sicuramente in questi casi, perché abbiamo i prezzi che sono esposti al lordo di IVA. Abbiamo pubblicato la settimana scorsa una percentuale che viene utilizzata da questi soggetti, quindi da chi ha dei listini prezzi al lordo di IVA, e è stato fatto un calcolo che, moltiplicando il prezzo del listino prezzi al lordo di IVA per 1,0083 periodico, si riesce velocemente a determinare il prezzo lordo all'ordo di IVA, e quindi aumentato dell'aumento di IVA. Vabbè, potranno aggirare in qualche maniera queste difficoltà. Mi ricordo che la settimana scorsa avevamo anche affrontato il tema di tutte quelle aziende, di quei grandi centri commerciali e grandi insegne che per esempio pubblicano dei cataloghi con tutte le indicazioni di prezzo dei propri articoli, in questo caso dovevano gestire anche questo problema, o prenderli, ritirarli e gettarli tutti al macero e ripubblicarli, ristamparli, oppure magari con una semplice etichetta far conoscere appunto al cliente finale questa novità. De Stefani. Esattamente. Volendo si può aggiungere davanti nella prima pagina oppure accanto ai prezzi un'etichetta adesiva oppure un timbro in cui viene detto: dal 17 di settembre i prezzi sono aumentati, i prezzi quindi lordi sono aumentati dello 0,83%. Questo è l'aumento del prezzo e corrisponde all'1% sull'imponibile, che è pari appunto allo 0,83% sul prezzo totale all'ordo di IVA. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, oggi ritorniamo su un tema già affrontato la settimana scorsa, ma oggi ci entriamo ancora più nel dettaglio: l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 20 al 21%. Oggi ci soffermiamo sul cambiamento per i professionisti, ma anche su che cosa cambia per la cessione di beni mobili, quindi l'acquisto banale di un elettrodomestico al centro commerciale, e soprattutto che cosa cambia per chi magari ha fatto una sottoscrizione di un contratto d'acquisto tipo il 15 settembre, non ha ancora pagato però per questo bene. Lo deve fare la prossima settimana, pertanto si ritrova, anche per un bene che ritiene di aver comprato prima di questo cambiamento, in realtà deve pagare appunto il prezzo maggiorato di questo aumento. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande, che potete girare a noi di Salvadanaio. Noi a nostra volta le giriamo a Giovanni Parente del Sole 24 Ore e Luca De Stefani, nostro esperto di questioni fiscali, che è anche tra gli autori della guida che esce oggi con il Sole: cosa cambia per l'IVA, i punti toccati, quando scatta l'aumento dell'aliquota per commercianti e professionisti, la stretta anche sui depositi doganali di merci per limitare le frodi. Ci sono tanti aspetti da considerare, le segnalazioni per lo spesometro, e magari questo è un tema che affronteremo nei prossimi giorni, e tanti altri punti ancora. Cominciamo a sentire gli ascoltatori. Il primo che si era messo in collegamento era Salvatore da Salerno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io sono un professionista con il regime dei minimi, diciamo non fatturo oltre i 30.000 euro. Sì. Leggo su vari blog, su alcuni giornali, insomma, le proteste dei partita IVA, perché per questo tipo di rapporto con l'Agenzia delle Entrate ci sarebbe un salasso. Io ho cercato di informarmi un po' da me, anche se forse non sono stato attentissimo, però il problema è che ci sono tanti regimi, forfettone, forfettini, insomma, io non ho capito bene quale sarebbe il discorso relativo alla mia situazione, in cui io verso il 20% di IRPEF e basta, insomma, non ho da versare l'IVA. Ah, e poi volevo sapere ovviamente se comunque cambia qualcosa per me rispetto al fatto che quando faccio la fattura non faccio riferimento all'IVA, se comunque è cambiato qualcosa almeno. Grazie. Questa è la cosa. Grazie Salvatore. Grazie tante. Allora, la puntata sui contribuenti minimi, caro Giovanni Parente, l'ultima volta Salvadanaio l'ho fatta con te. Cambia qualcosa per questo regime? Allora, cambia qualcosa, ma non da adesso, bisogna spiegarlo bene. Il regime dei minimi sarà cambiato dal 1 gennaio 2012. Ci sarà sicuramente una stretta, nel senso che non entreranno tutte le persone che adesso fanno parte del regime dei minimi, perché il limite che è caduto a chi ha iniziato l'attività dal 1 gennaio 2008. C'è una possibilità però poi di proroga lunga nel nuovo regime dei minimi per chi ha meno di 35 anni, cioè durerà 5 anni, però chi ha meno di 35 anni, siamo 20-25, può rimanerci se permangono i requisiti di reddito e ricavo fino a quando non avrà compiuto quei 35 anni. Il vantaggio che avrà questo regime, che includerà comunque meno soggetti, meno contribuenti rispetto a quelli di adesso, è che avrà un forfè molto più basso, quindi si passa dal 20 al 5%. Infatti ricordavo questa aliquota e mi stupiva anche che ci fosse appunto questa differenza, però. Esatto, restano ferme alcune delle esenzioni che sono previste adesso, quindi insomma anche quella sull'IVA che ci diceva il contribuente al telefono. Invece ci sarà un altro regime, tanto per complicare un po' la vita certamente, a tutti. Certamente, facciamoci mancare. Che lui. Noi abbiamo definito residuale, che sarà una sorta di micro contentino, chi non fa parte più dei nuovi minimi e che entrerà in questo regime con comunque delle esenzioni, delle semplificazioni, e avranno qualche vantaggio ma più limitato, e però pagheranno l'aliquota IRPEF ordinaria secondo quanto saranno le loro regimi. Quindi diciamo che quindi il contribuente minimo è esente dall'IVA, da quello che capisco? In questo momento sì. Ecco, quindi teoricamente allo stato dei fatti, Luca De Stefani ce lo conferma, il nostro ascoltatore, non cambia nulla a prescindere da quello che cambierà dal 1 gennaio prossimo? Luca De Stefani? Dove è finito? Non è che avrà mica pensato che la trasmissione è terminata. Adesso lo recuperiamo al telefono per un attimo. Io intanto continuo a ricordarvi che potete chiamarci all'800 24 00 24, intanto che Marco Lombardo ci ripristina la telefonata, perché quella del consulente, del commercialista, è fondamentale questa mattina. Luca De Stefani. Eccomi qua. Cosa era successo? È andata a verificare al bar sotto casa se aveva cambiato il prezzo stamattina? Eh? No. Ascoltavo tutto in diretta. Sì, ha sentito la questione del contribuente minimo? Certamente. Sì. Per quanto riguarda i soggetti minimi, per quanto riguarda le fatture che emettono, non cambia nulla, perché non hanno l'IVA, non devono mettere e esporre l'IVA e non devono neanche versarla di conseguenza. Per quanto riguarda le fatture di acquisto invece di questi soggetti minimi, vi è un aumento, ed è un aumento che rimane a loro carico, in quanto l'IVA della fattura passiva per il soggetto minimo non è detraibile, non possono detrarsi l'importo, quindi funziona un po' come una persona fisica privata. Capito perfettamente. Allora andiamo adesso a Gaetano dalla mia Ancona. Gaetano, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci dica. Da Sedigallia di preciso. Bene. Senta, la spiaggia di Velluto. Volevo parlare un attimo del problema delle merci pagate in tutto o in parte con degli acconti prima della consegna, e quindi a cavallo tra il passaggio dell'IVA dal 20 al 21. Sì. Gli acconti sono regolarmente fatturati con fattura di acconto. Quando vado a consegnare la merce faccio fattura di vendita. L'IVA al 21 va applicato sull'intero imponibile della merce o sull'eventuale importo residuale al netto degli acconti? Grazie Gaetano, si fermi lì qualora Luca De Stefani avesse bisogno di ulteriori dettagli. Allora, siccome bisogna fa fede il cosiddetto concetto di effettuazione dell'operazione, qui quando cade De Stefani, ho letto... Cade, sì, per gli acconti cade prima dell'aumento dell'IVA, perché sono stati pagati prima del 17 di settembre, e quindi quella fattura viene emessa, doveva essere emessa il giorno del pagamento e doveva avere l'aliquota IVA del 20%, mentre l'IVA del 21% si applica solo ed esclusivamente sulla fattura di saldo, se questa viene emessa il giorno della consegna dopo il 17 di settembre. Andiamo a Domenico da Reggio Calabria, perché questo è anche un caso che mi interessa e probabilmente nel quale si ritrovano moltissimi ascoltatori e consumatori. Domenico, buona giornata. Buongiorno, sono Domenico. Sì. Volevo chiedere questo cortesemente. So che avete accennato già la settimana scorsa questo argomento. Io ho acquistato un'automobile, ho fatto il contratto a fine giugno. Questa automobile ancora però non l'ho ritirata. Sì. Ritirata, esatto. Quindi ho lasciato un anticipo, pagherò una cifra in contanti e un'altra parte mediante un finanziamento. Sì. Esatto. Volevo chiedere se, diciamo, dovrò subire questo aumento dell'IVA ugualmente, e nel caso in cui per assurdo, diciamo, non volessi accettare, se è possibile, questo aumento dell'IVA, io posso recedere il contratto? Recedere il contratto no, ecco. Lo so, sa com'è, che questa è una condizione di inasprimento del contratto che non ha deciso il, come dire, venditore. Intanto il venditore, pertanto non se la può prendere neanche con lui. E poi certo tutto si può fare e bisogna anche capire che cosa stabilisce questo contratto, anche che tipo di penale, perché lui comunque avrà anche fatto la prenotazione di quest'auto, magari sarà già in viaggio, starà già arrivando, per il commerciante potrebbe anche rappresentare un danno questo recesso di contratto. Però c'è anche, per al diritto di recesso c'è sempre per tutto, bisogna stabilire, c'è anche in mezzo il finanziamento qua, quindi è una questione piuttosto complessa. Luca De Stefani, da che cosa partiamo intanto? Fiscalmente l'IVA, c'è l'obbligo della rivalsa IVA nei confronti del soggetto. Nel caso specifico, cosa vuol dire? Cioè, in pratica, l'aumento dell'IVA, il venditore deve fare la rivalsa sul consumatore finale. Lo scarica. E bisogna vedere in questo caso. Si deve scaricargliela, praticamente farla pagare a lui, sì. Sì. In questo caso specifico, il momento rilevante, cioè per capire l'importo dell'IVA, è il momento della consegna, perché parliamo comunque di un bene mobile. E se la consegna viene dopo il 17 di settembre, purtroppo c'è l'aumento a carico del certo, e tra l'altro è un aumento che va, che comunque riguarda a parte tutta l'operazione, ma lui ha già dato un anticipo, quantomeno può risparmiare certo. Su quello. Su quello sì, su quello abbiamo il 20%. Cosa succede invece per i finanziamenti, Luca De Stefani, per chi paga le cose a rate? Ammettendo appunto di aver comprato un bene ammettiamo di averlo comprato, vabbè, ma tanto se non è stato consegnato, stavo cercando di capire se poteva essere già partito un finanziamento, rate già pagate e rate ancora da pagare, ma teoricamente se il bene è già stato consegnato ed è stato, come dire, l'operazione è stata effettuata, esatto, non c'entra nulla, per cui vale il contratto stipulato inizialmente. Certo, per i nuovi certo. contratti invece che partiranno nei prossimi mesi, l'IVA inciderà anche sui finanziamenti del credito al consumo? Sì, perché poi aumenterà l'importo del totale fattura da pagare, con un'IVA, avrà un'IVA del 21%, quindi aumenta il totale fattura, aumenta quindi l'importo del finanziamento. Giovanni, che impressioni hai dalle prime telefonate che ci stanno arrivando? Quella che insomma in qualche modo presagivo, vuol dire che è una materia totalmente complessa in cui non è facile districarsi, in cui però mi sembra che ci sia anche una preoccupazione di fondo che arrivino aumenti ingiustificati, no? E magari anche qualche ascoltatore ci faceva notare che c'erano delle segnalazioni sul campo che in qualche modo l'aumento praticato da alcuni gestori o da alcuni rivenditori non è proprio fedelmente quello dell'1% Già che ci siamo, arrotondiamo per eccesso. Non abbiamo affrontato, De Stefani, magari lei ha, anche se non mi pare che sia giustificato, cioè il diritto di recesso da effettuare, come suggeriva l'ascoltatore. Lui dice: io posso andare dal mio rivenditore dell'auto, dal concessionario, a dirgli che non voglio più quest'auto perché non voglio subire questo aumento di prezzo, anche se non è colpa tua. Io comunque voglio recedere dal contratto. Bisogna vedere il contratto specifico, se è stato concordato l'importo lordo finale oppure l'imponibile più IVA, cioè se è stata esplicitata l'IVA, l'aliquota IVA, è stato quindi indicato che c'è una tassa, un'imposta a carico del consumatore finale, e se aumenta questa a cause non imputabili al rivenditore, difficilmente è possibile fare il recesso. Se invece il contratto è stato fatto su un prezzo lordo senza indicare l'IVA da nessuna parte, in nessun campo del contratto, che trovo difficile, però allora in questo caso è possibile fare il recesso. Anche perché magari, non lo so, se uno avesse fatto una sorta di contratto, che ne so, 20 giorni fa, qui siamo di fronte comunque ad un'operazione conclusa teoricamente già a giugno, per cui tutto quello che è intervenuto dopo magari si poteva ragionare con il concessionario. Di fatto adesso appunto non credo che sia corretto questa marcia indietro, anche se poi comprendiamo lo sconforto del consumatore. Ci sono venuti in mente intanto 2000 temi da affrontare relativamente appunto al tema più generale che tocchiamo questa mattina, l'aumento dell'aliquota IVA al 21% scattato sabato scorso. Cosa cambia per le operazioni commerciali, cosa cambia anche per i professionisti, ma soprattutto a quali sanzioni si va incontro se non si ottempera alla lettera rispetto a quanto stabilisce la manovra finanziaria, appunto, che è legge da sabato scorso. Giovanni Parente, che cosa ha detto l'Agenzia delle Entrate relativamente a questo? Allora, ha detto che per un primo momento non si applicheranno sanzioni, fermo che poi tu dovrai riadeguarti in qualche modo. Chi può subire una sanzione? La sanzione scatta se in qualche modo si fattura in una misura inferiore rispetto a quello che si dovrebbe, cioè quindi non si calcola questo aumento dell'IVA ed è molto pesante, cioè quindi dal 100 al 200% della differenza non fatturata, e si parte da un minimo di 516 euro in su sostanzialmente. E quindi insomma l'Agenzia delle Entrate chiuderà un attimino un occhio, anche perché molte aziende dovranno per esempio riadeguare tutti i programmi di calcolo, informatici, i software, esatto, di calcolo, software contabili, non è una cosa facile, ci vuole un po' di tempo e soprattutto diciamo, ricordiamo che nell'ultimo aumento che c'era stato dell'IVA, quindi era stato nel 1997, si era partiti dal 1 ottobre, era un po' una data un po' più semplice perché consentiva un calcolo di azzerare il mese, cioè partire con un calcolo mensile e trimestrale. Adesso si parte a metà mese iniziato, nel bel mezzo di un trimestre, e non è facilissimo infatti questo è quello che rileva Giovanna da Modena. Giovanna, buongiorno. Buongiorno. Allora io chiedevo, un artigiano che esegue impianti, quindi nell'arco di un mese succede che ci sono dei documenti di trasporto per consegna di materiali prima del 17 e altri magari dopo. La fatturazione viene fatta a fine lavori, quindi entro la fine del mese. Come bisogna applicare l'IVA? Bisogna fare due fatture distinte, una che raccoglie i documenti di trasporto fino al 17 e la successiva dal 17 in poi, o bisogna fare comunque la fattura unica differita con raggruppamento delle bolle mensili con l'IVA tutta al 21? Chiedo. Giovanna, grazie tante, si fermi lì. Allora Luca De Stefani, lei sul Sole di sabato scorso scriveva ad un certo punto: per il mese di settembre molte imprese preferiranno emettere due fatture differite allo stesso cliente con differenti aliquote IVA, visto che la nostra ascoltatrice appunto ha rappresentato il caso della possibilità di emettere per la sua situazione due fatture differite. Secondo lei è la strada giusta che questa contribuente deve seguire? Sì, è corretto. Allora, la fattura differita è una possibilità che ha il contribuente di non emettere le fatture ogni giorno, quindi nel giorno della consegna o della spedizione della merce, ma di raggruppare tutte le vendite fatte nel mese e fare la fattura entro il 15 del mese successivo. In questa fattura vanno riassunti tutti quanti i DDT, i documenti di trasporto delle vendite fatte nel mese precedente, e va fatta quindi a fine di settembre o comunque entro il 15 di ottobre. Per il mese di settembre avremo delle consegne effettuate fino al 16 e altre fatte dopo il 16 di settembre, quindi alcune hanno un IVA del 20% e altre del 21%. La soluzione può essere quella di fare un'unica fattura, però con due imponibili IVA ordinarie, e quindi per le consegne fatte fino al 20, fino al 16 di settembre il 20% e poi il 21%, oppure fare due distinte fatture differite. Una per il primo periodo e una per il secondo periodo. E qui ci mettiamo a posto con tutto. Questa mattina, sapendo che avrei fatto questa trasmissione, un mio amico che si chiama Francesco mi ha scritto questa mail chiedendomi gentilmente appunto di girare poi questa richiesta di chiarimento a voi. Lui ha avuto questa segnalazione dal suo commercialista: le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto dell'incasso del corrispettivo, pertanto le fatture o le ricevute fiscali pagate dai clienti a decorrere dal 17 settembre saranno soggette l'aliquota del 21%. Nel caso di proforma emesse antecedentemente, quindi con la vecchia aliquota, ma incassate dal 17 settembre in avanti, la relativa fattura dovrà essere assoggettata alla nuova aliquota del 21%. Questo è quanto gli ha detto il commercialista. Allora lui dice: il professionista dovrebbe emettere una fattura proforma e poi la fattura al momento del pagamento, ma se ha emesso la fattura con il vecchio regime IVA, quella proforma immagino, e la fattura nuova che viene pagata dal 17 settembre e la fattura viene pagata dopo il 17 settembre, che succede? L'IVA resta quella della fattura pro forma o il cliente deve adeguare l'importo al momento del saldo? Diciamo i professionisti sono solitamente emettono delle fatture pro forma, quindi delle fatture intanto delle che proprie. Cosa vuol dire? Esatto. Cosa vuol dire? Prima dell'incasso, prima del pagamento, emettono queste fatture pro forma o notule, parcelle che non sono delle fatture vere e proprie. In pratica sono sembrano delle fatture, ma hanno un elemento non hanno un elemento obbligatorio per la fattura, ad esempio non hanno la data, oppure non hanno il numero, oppure non hanno il nome, il nominativo fattura, e appunto si chiamano notule spesso. Queste fatture pro forma consentono di comunicare al cliente l'importo che deve pagare, ma non obbligano il professionista a versare l'IVA. Ora, tutte le fatture pro forma emesse prima prima del 17 di settembre di quest'anno, che hanno un'IVA del 20%, dovranno per forza essere rifatte, perché vale la data del pagamento. Se il pagamento avviene oggi, si dovrà applicare e mettere la fattura oggi ed applicare su questa fattura che si emette il 21%. E al momento del pagamento, quindi, che si evidenzia il cosiddetto concetto di effettuazione per le prestazioni dei professionisti, quindi? Esattamente, esattamente. L'alternativa potrebbe essere quella di avere messo in data 15 o 16 di settembre la fattura definitiva, quindi non fattura pro forma ma fattura definitiva, però il professionista in questo caso è obbligato a versare l'IVA nella prossima liquidazione IVA, a prescindere, quindi indipendentemente, dal pagamento della fattura da parte. Mamma mia, che mal di testa con cui finisco questa trasmissione oggi. Comunque, Vito dalla provincia di Bari, buongiorno, rapidissimo che siamo sulla via della chiusura anche oggi. Sì, buongiorno. Un chiarimento semplicissimo, se possibile. Sì. È aumentata l'aliquota IVA al 21%, sì. È ritenuta da conto sulle fatture dei professionisti invece? La ritenuta va sempre al 20%? Allora, guarda, intanto le dico che questo punto è toccato a pagina 53 della guida Cosa cambia per l'IVA, così facciamo bella pubblicità a questa guida, che tra l'altro è stato frutto anche di un due giorni di lavoro molto intenso per i colleghi del Sole 24 Ore. Mi pare che sia questo il punto: per i professionisti, nel caso di ritenuta applicata al 20%, cambierà il netto fattura, che spesso coincideva al totale dei compensi, eccetera eccetera. De Stefani. Sì, allora l'aliquota della ritenuta d'acconto è rimasta del 20%, quindi non vi è nessun tipo di variazione, quindi non abbiamo differenze. Però praticamente qui viene indicato, a parte che la questione è piuttosto complessa, si fa un esempio con una fattura per 6.000 euro di compensi senza l'aggiunta di contributi, questa aveva l'IVA al 20% per 1.200 euro, meno la ritenuta di pari importo, e chiudeva un netto fattura di 6.000 euro. Con l'aliquota del 21 la fattura per 6.000 euro avrà l'IVA al 21% per 1.260 euro, meno la ritenuta di 1.200 euro, e quindi chiuderà con un netto fattura di 6.060. Esatto. Ecco, quindi il finale cambia ovviamente perché aumenta l'IVA al 21%, ma l'aliquota della ritenuta d'acconto no, quella certo rimane quello è un esempio in cui si calcola sia l'aumento dell'IVA sia la ritenuta d'acconto. La ritenuta d'acconto è ferma al 20%. Sì, certo, infatti noi calcola solamente il rapporto. Abbiamo terminato. Se ci sono anche degli aspetti che non avete chiarito, che non avete capito, scriveteci a salvadanaio@radio24.it, perché tanto poi da oggi pomeriggio scatta il mio giro mail a Luca De Stefani, che si mette a nostra completa disposizione per aiutarmi appunto a chiarire. Non abbiamo toccato il tema dell'aumento delle tariffe autostradali, chiariremo anche questo punto, perché mi pare che questo trasferimento dell'aumento non sia stato esattamente percentualmente corretto. Grazie a Luca De Stefani, a Giovanni Parente per essere stati con noi, torniamo domani, buona giornata a tutti.